berkusung lang riko sisi. Asoy! Sun lang riko, duwe rosa. Sun lang riko, nono beto. Sun lang riko, duwe anti. Merko sun lang riko sisi. Nono no.